Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1996, io sono sempre Alessandra Fiori e qui con me c'è sempre lui, Franco Schipani. Ciao a tutti, ciao Alessandra. Franky, cosa ascoltavamo nel 1996 soprattutto? Partiamo da quella che è la canzone più venduta dell'anno, come al solito. E questa è Gangsta's Paradise, Call You and LV. Questo brano ha ricevuto un Grammy Awards, non soltanto, ma addirittura il prestigiosissimo settimanale The Village Voice all'epoca lo fece votare come il miglior brano dell'anno. Attenzione, perché non è un brano originale, perché è un brano, sentite sotto e sottofondo, di Stevie Wonder, Pastime. Ah, sì? Paradise. Però questa canzone qua, questo Julio, l'ha scritta per un film, se non sbaglio, Pensieri Pericolosi, che è del 95, quindi l'anno prima, con Michelle Pfeiffer. Dangerous Mind, esatto. Grande film. Te lo ricordi? Me lo ricordo, un film molto molto bello, Alessandra. Comunque dobbiamo anche dire che in questo periodo, siccome ormai le tecnologie sono diventate alla portata di tutti, si stanno sfornando tanti tanti dischi, però mentre la tecnologia va avanti, la creatività diciamo che va un po' più a rilento. Allora che cosa fanno? Vanno a saccheggiare moltissimi il meglio del meglio degli anni 60, degli anni 70. E tra questi saccheggiamenti, si può dire saccheggiamenti? Saccheggi. Anche saccheggiamenti. Cosa preferisci? Saccheggiamenti. Sa che ti piace di più? Va bene. Ecco, tra questi saccheggi, sì, chi è che fa la parte del leone? Sono quelli che vanno a saccheggiare che cosa? Addirittura la Motown, il Detroit Sound, come si chiamava all'epoca e come ancora si chiama oggi, e molti dischi che sono usciti in quel periodo, non soltanto della Motown, quindi del Detroit Sound, li rifanno perché diventano di nuovo punto di riferimento. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And he was this young boy, stranger to my eyes. Strum me my pain with his fingers, singing my life with his voice, killing me softly. Siamo rientrati nella collezione vinili del nostro Alessandro. Ma questo è un remix un po' particolare, però. Sì, Kill Em Soft di Regina. Io preferisco la versione Fugees, posso dirlo? Quale? Fugees, quella che è diventata la più famosa, è quella di Roberta Flack, che è stata portata al successo nel 1973. Molto. Ma per te dolce. La più famosa, per me la più famosa è quella dei Fugees. Vabbè, ma perché ci stiamo parlando prima, siamo della regione. A cavallo, okay. Ecco, tu conosci l'originale, diciamo. Sì, l'originale è proprio un'altra. Comunque, sì. Comunque questa di Roberta Flack ha avuto un successo interplanetario, poi lo hanno un po' cantato tutti questo brano. E comunque questo brano è per 5 settimane consecutive al Billboard Top 100, è arrivato al numero 1. Però Franco, io ti assicuro che in Italia intanto suonava anche un'altra musica. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Ecco, la canzone popolare di Ivano Fossati, che l'ha scritta in realtà nel 1992, ma è in questo 96 che viene usata, naturalmente con il consenso dell'autore, come colonna sonora della campagna elettorale dell'Ulivo. Infatti l'anno si apre con le dimissioni del presidente del Consiglio in carica, Lamberto Dini. Le nuove elezioni sono fissate per il 21 aprile e a vincerle è proprio la coalizione di centro-sinistra dell'Ulivo, guidata da Romano Prodi. Sì. I dati in nostro possesso adesso dovessero essere confermati, toccherebbe a coloro i quali al cambiamento si opponevano di governare il paese. Tuttavia, quello che qualifica un paese come democratico non è l'esistenza di una maggioranza, è l'esistenza di una opposizione. Mi sembra a questo punto abbastanza evidente che l'Ulivo ha vinto le elezioni. Ecco, erano Antonio Martino che ammetteva la sconfitta e Massimo D'Alema che annuncia la vittoria. L'Ulivo ottiene la maggioranza assoluta al Senato, mentre alla Camera ha bisogno dei voti di Rifondazione Comunista, con la quale ha firmato per le elezioni il cosiddetto patto di desistenza. Insomma, Rifondazione ottiene l'8,6% dei consensi alla Camera, eleggendo ben 35 deputati determinanti per assicurare al governo Prodi la maggioranza alla Camera. E anche 10 senatori. Bertinotti e Cossutta non entrano però a fare parte dell'esecutivo, la cui sopravvivenza rimane sempre legata al difficile accordo con Rifondazione Comunista. E intanto proprio i rapporti con Rifondazione sono al centro delle domande a caldo che i giornalisti pongono a Prodi. Ragazzi, a volte rischiare e assumersi la responsabilità dà anche dei frutti. Non è affatto vero che sia necessario un allargamento di numeri, abbiamo numeri a sufficienza e quindi possiamo governare. Potranno esserci delle convergenze con Rifondazione su singole questioni? Su singole questioni certamente, noi però non possiamo cambiare il programma con cui siamo andati davanti agli elettori e quindi problemi forti come ha sollevato Bertinotti con la scala mobile, anche se capisco che cosa c'è sotto, non li posso accettare perché questo segnerebbe il ritorno di un'Italia instabile dal punto di vista economico. Io voglio assolutamente stabilità, dobbiamo riprendere la via dello sviluppo, dobbiamo correre, allora dobbiamo essere tranquilli. E tranquillamente, allora, il governo presieduto da Romano Prodi si insedia ed è composto da ministri politici e tecnici. Li ricordiamo, ne ricordo qualcuno, Franco. Walter Veltrone è vicepresidente del Consiglio, Giorgio Napolitano è all'interno, Dini agli esteri, Ciampi al bilancio, Visco alle finanze, Bersani a industria, commercio e artigianato, Di Pietro ai lavori pubblici. Franco, vado avanti? Ma guarda, fai un po' tu. And it's me and me. How deep is your love? Vedi che se ritorna al passato, Alessandra, anche i Take That con How Deep Is Your Love, che è il famoso brano molto della colonna sonora del film La Febbre del Sabato Sera, che originariamente era stato scritto per Yvonne Hillman, poi ha detto vabbè, no, sai che c'è nel TBC, ce la cantiamo noi, infatti così hanno fatto. Ecco, i Take That sono poi considerati il primo vero gruppo chiamato Boy Band. Lo sai che cos'è una boy band? Ma la parola un po' aiuta, la memoria fa il resto. Beh, praticamente dice, prendiamo dei bei ragazzi, però mi raccomando che sappiano anche cantare. Un po', almeno sì, un po'. Almeno un po'. E allora dai boy band, passiamo invece a una cosa di casa nostra. Più bella cosa non c'è. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che 24, musica e storia. Vado a incontrarti fra cent'anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 1996. Franco, quanto mi piace Tosca. Ti piace Tosca? Molto. Ed è stata anche molto fortunata, perché questo Vorrei incontrarti fra cent'anni, che è la canzone che ha vinto quell'anno il Festival di Sanremo, originariamente non la doveva cantare lei, ma Ivana Spagna. Ah sì? Poi per qualche motivo tecnico legato proprio a, credo, a... Al regolamento di Sanremo dei brani. Credo lei ne avesse presentata già un'altra, sai? Sì, una cosa del genere, non mi ricordo bene, però una cosa legata al regolamento, non l'ha potuta cantare e quindi l'ha cantata Tosca. La senti in sottofondo? Chiappini, ce la alzi un attimo lei. Il mio amore, che per il tuo bene sopporterei ogni male. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Eccolo, appunto, vorrei incontrarti fra cent'anni, ha vinto il Festival di Sanremo, però il giorno prima, mentre nel programma Striscia la Notizia, pensa che Enzo Iachetti ha detto, dice, domani uscirà un film con Rosa Fumetto, Lino Banfi e Vince Tempera. E quindi? E allora, Rosa Fumetto, Rosa, poi Lino Banfi, Lino, quindi Ron si chiama Rosa Lino, quindi Rosa Lino, e poi Vince Tempera. Ah, ma tu vuoi dire? Quindi Rosa Lino vince. Va bene, Franco, dietrologia sanremese. Ma così si disse all'epoca. Senti, questa fantasia sanremese, invece, prima di continuare con il festival, ti porto a fare un giro nella realtà del 1996. A marzo Israele e Olp firmano l'accordo di Sharm el Sheikh, che prevede il riconoscimento dello Stato di Israele e il diritto a uno Stato palestinese indipendente. Il 7 gennaio inizia il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea con Lamberto Dini prima e poi dal 18 maggio con Romano Prodi. Mentre in Francia il neopresidente Jacques Chirac, dopo l'ultimo esperimento effettuato in Polinesia, annuncia finalmente la fine, la definitiva cessazione dei test nucleari francesi. E allora finiti gli esperimenti. Cioè, hai trattenuto il fiato perché volevi arrivare? Volevo ritornare a Sanremo. Bravo, ovviamente. Bene, allora bene. Presenta Pippo Baudo, sì, con Sabrina Ferilli e Valeria Mazza. 14 milioni di ascoltatori l'ultima serata, 62% di share. Complimenti. E questo, tanto, numeri bulgari, questi numeri. Sì, forse ancora si fanno, non così, ma... Insomma, e che cosa vuoi farci? Scegliene una. Ma prendo la giovane che nel 1996 attirò l'attenzione un po' di tutti, sia della critica che del pubblico. È un altro amore, se ne va con la sua piccola ferita, e un giorno si ci sto No, non è Laura Pausini. No, è Siria con Non ci sto. Bella voce. Senti, brava. A volare a bassa voce, a bassa quota, scusa, Non ci sto, voglio. Poi dice anche, perché mi sono andata a sentire questa canzone quando ho visto che l'avevi scelta. Dice: voglio un amore esagerato, un mare sconfinato che non si asciughi mai. Ma Franco, come sei bucolico. Ma magari, Franco. Ma magari, magari. Comunque, Franco, nel 1996 arriva in Italia una legge molto importante, perché viene approvata la prima vera norma sulla violenza sessuale. Vengono aumentate le pene, ma soprattutto c'è un importante cambiamento concettuale, perché la violenza sulle donne, la violenza sessuale, non è più un delitto contro la morale, ma contro la persona. E le pene previste per gli stupratori vanno da 5 a 10 anni. Se compiute poi su un minore di 14 anni, c'è l'aggravante e la pena aumenta dai 6 ai 12 anni. Però scusami, ma è tutto così melodico questo festival? È immune al rap, alla techno, all'house, Franco? Ma sai che c'è? Senti questa canzone al sottofondo? Certo. Uno quando la scrive dice: ma guarda che bella canzone, ma questa è perfetta per Sanremo. Cioè, ma non c'è neanche qualcosa che è imperfetto per Sanremo, al festival di Sanremo? No, Gianfanni prese questo sicuramente, perché Sanremo ha tutto un suo repertorio, tutta una sua storia, quindi quando fai il pezzo giusto per Sanremo, lo sanno tutti, Sanremo è Sanremo, quindi portare della techno a Sanremo sarebbe non un po' va. Come fare un autogol. Vabbè, no? Comunque quell'anno arrivano un po' tutti, c'è Bruce Springsteen, Celine Dion, Pat Metheny, Bon Jovi, ma soprattutto gli altri, questi due signori. He takes the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. Let me know the way. I've tried, and still they lead me back to the long winding road. You left me standing here. Long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. Many times I've been alone. Many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, and still they lead me back. Sono Enrico Ruggeri, oggi al Falco il Gabbiano una storia terribile, la storia di Bobby Sands e del suo sacrificio in nome della causa irlandese. Vi aspetto alle 15.30 al Falco il Gabbiano su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24, musica e storia. Oh, the long and winding road that leads to your door. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori, ancora Franco. E io sono Franco Schipani, ciao. Siamo sempre nel 1996. Ascoltiamo cosa, Franco? Beh, prima abbiamo ascoltato When a Man Loves a Woman di Michael Bolton. Tanto per ricordarci che quest'anno stanno riprendendo tutti i vecchi successi del passato. Tu sei felice? E se ne stanno rifacendo? Eh sì, perché fatti bene. Poi insomma, Michael Bolton. E questo invece è The Long and Winding Road di George Benson, che è una canzone dei Beatles, l'ultimo singolo dei Beatles del 1970. George Benson, che nel 1996 è andato a Sanremo a furor di popolo, io l'ho accompagnato. L'hai accompagnato? L'ultima volta che sono stato dal vivo a Sanremo, tanti, a 20 anni, sono passati 20 anni, ti rendi conto? Mi rendo conto, Franco. Ed era talmente piena Sanremo che noi abitavamo di albergo a Nizza, ovviamente. Non male. Quindi facciamo avanti e indietro. Una cosa comoda. Ma la cosa divertente è che quell'anno, quando George Benson arrivò per fare le prove al teatro, sì, cioè l'orchestra aveva deciso di fare questo brano e l'orchestra si è molto molto divertita. C'era Pippo Baudo come direttore artistico, come conduttore. A un certo punto l'orchestra si ribellò e disse: senti, direttore, ma adesso che lui sta qui, George sta qui, per favore, che ce la fai fare una canzone con lui che non c'entra niente col festival? E l'hanno fatta? E l'hanno fatta e sono divertiti moltissimo. Una volta che ci capita, facci suonare, quindi facci divertire. Quindi tu facevi avanti e indietro tra Sanremo e Nizza. E Nizza, però sì. Franco, tu eri in America ormai da 20 anni, sì. E io ti voglio raccontare che il 5 novembre in America... Lo ricordo benissimo. Bravo. Bill Clinton viene rieletto per un secondo mandato come presidente degli Stati Uniti e vince contro un repubblicano, ovviamente Bob Dole. My fellow Americans, thank you for being here. Just 4 years from now, we will enter a new century of great challenge and unlimited possibility. Now we've got a bridge to build, and I'm ready if you are. E insomma, Bill Clinton è pronto, se lo sono anche loro, ma lui era pronto comunque. Era pronto, sì. Intanto, a dicembre, sempre in questo 1996, Kofi Annan viene eletto segretario generale dell'ONU e resterà in carica fino al 2006, quando viene sostituito da Ban Ki-moon. Alleluia! Alleluia, zucchero, vivo o morto, OX, Ligabue, protagonisti assoluti del Festival Bari 1996, che comunque è stato vinto da Eros Ramazzotti, che abbiamo ascoltato prima. Più bella cosa non c'è. Esattamente. Questo. Ma lo sai che nel 96 tra i conduttori del Festival Bar c'era la Marcuzzi? Ah sì, non lo ricordo. Sì, parte era lontano. Poi è il periodo in cui il festival comincia a diventare non più... Dice, il festival Sanremo, sai, ti ricordi quella edizione che ha vinto Modugno, quella che ha vinto... Invece comincia a diventare il festival di chi lo presenta e di chi invece fa la valletta. E poi c'era il CD del festival, ormai. Sì, no, ormai uno, due. C'erano le raccolte, i case discografici che litigano tra di loro per fare la raccolta, delle raccolte, dei mix, un po'... Comunque è diventato, cominciato a diventare, ecco, anche il Festival Bar. Chi era quell'anno che lo presentava? Chi è che faceva la valletta? La Marcuzzi non faceva la valletta, lo presentava. Lo presentava. Comunque in primavera, Franco, subito prima del Festival Bar, il 31 maggio del 96, muore a Roma Luciano Lama, lo storico segretario nazionale della CGIL dal 70 al 1986, e aveva 74 anni nel 96. E adesso ascoltiamo un brano del suo ultimo discorso prima di lasciare il sindacato nel 1986, un bellissimo testamento. Grazie per avermi offerto una vita piena, una causa grande, una ragione giusta di impegno e di lotta. Voi sapete, voi tutti sapete, che ci unisce e ci unirà sempre un rapporto di fiducia, un amore profondo che nessuna vicenda umana potrà spezzare. Perché ci sono delle radici che non si possono sradicare. Voi per me siete quella radice. Ecco, il 5 luglio del 1996 a Edimburgo c'è una nascita molto importante e anche molto particolare, perché, Franco, si tratta di una pecora, ma non è una pecora qualunque. È Dolly. Ve la ricordate Dolly? Ce la ricordiamo. Famosi, una delle pecore più famose nella storia del pianeta. Eh sì, perché è il primo mammifero frutto di clonazione. Posso di sera, l'ora ridi, sale la luna, sale chiedi, tutti i colori nasconde la notte stanotte, al di là delle stelle, sette colori dell'arcobaleno, sette colori per dipingere il cielo, scegli le note per una canzone d'amore, da improvvisare. Ridere per non prendermi troppo seriamente, sai che non merito. improvvisando Neri per caso e ridere di rotta su Cuba. Hai detto Cuba? Yes. Cuba. Sai perché, Franco? Perché l'evento più importante, uno dei più importanti del 1996 è l'incontro storico che avviene il 19 novembre tra Fidel Castro, che arriva in Vaticano, e Giovanni Paolo II. Buenos días. Buenos días. Santità, per me è un onore. Sono le prime parole rivolte da Castro al Papa. Benvenuto, grazie per la visita, gli risponde il pontefice. Attorno niente giornalisti, solo la TV Vaticana. Dietro questo incontro c'è un interesse reciproco. Se il Papa chiede la fine delle restrizioni alla libertà religiosa e garanzie per i diritti umani, Cuba ha bisogno dell'appoggio del Vaticano contro l'embargo commerciale degli Stati Uniti, già più volte condannato da Giovanni Paolo II. Ecco, Franco, è un incontro storico, appunto, perché il leader cubano, Castro, è a Roma per il vertice internazionale promosso dalla FAO per affrontare la questione della fame nel mondo. E l'incontro ha come tema centrale la normalizzazione delle condizioni della Chiesa a Cuba. Ed è un incontro anche importantissimo perché è preparatorio per il viaggio che poi il Papa farà a Cuba dopo qualche anno, ma noi poi ci torneremo, Franchi. Esatto, ma c'è qualcuno invece, cara Alessandra, che dirotta su altri argomenti importanti. Pensa che anche lui, il re del pop, a un certo punto fa una cosa che non ti aspetteresti. Care About Us, questo è Michael Jackson, una canzone impegnata. E che cosa? Ah, è questo che non ti aspetteresti da lui, dici? Sì, ma guarda, se tu vedi il video di questa canzone, come pure Heart Song, capisci che in quel momento Michael Jackson, insomma, non soltanto nella forma, non soltanto nella canzone, ma nei testi, aveva proprio il desiderio di comunicare qualcosa, aveva cambiato. E quindi dice, loro se ne fregano di noi. Se ne fregano di noi, oppure di Heart Song, che parla delle condizioni del nostro pianeta, con un video veramente, veramente stupendo. Questo è l'ombelico del mondo, oh, l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo, dove non si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare. È qui che si incontrano di fantasia, questo è l'ombelico del mondo, senti che sale questa energia, questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico. L'ombelico del mondo. Giovanotti, Lorenzo. Giovanotti. L'ombelico del mondo, anche questa, la canzone è divertente. Senti questa ritmica. Beh, estate 1996. Cominciamo a entrare nel periodo in cui anche tu uscivi a fare la pazzarella la sera. Cara Alessandra. Franco, invece, la sera del 29 gennaio del 96, un incendio doloso distrugge a Venezia lo storico teatro La Fenice, sede di numerose prime assolute delle opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi. L'incendio è, per i veneziani e non solo, una vera e propria catastrofe. 200 uomini circa ci hanno aiutato da tutta la regione. Una parte del teatro è completamente distrutta, si è salvata una parte degli uffici e una parte della falegnameria, dei laboratori. In questi momenti così duri si mescolano sentimenti personali anche alla valutazione, alla constatazione di una tragedia. Ecco, la Fenice di Venezia sarà riaperta nel 2003 con un grandissimo concerto di Riccardo Muti. Ma il 19 giugno la Versilia viene devastata da un'alluvione. Il paese è completamente sparito, specialmente nella parte alta, è andato via tutto, tutto completamente. Sono almeno 25 le frazioni completamente isolate, raggiungibili finora solo e soltanto con gli elicotteri. È iniziato a salire verso 2:10, alle 2:30 era tutto di fuori. Nessuno si è visto qui. Se non si faceva una catena di 10 persone per arrivare a un salvo, non c'era né un elicottero né una protezione per la strada da lì, porto in salvo queste persone. Proprio sulla sera, sul tardi, sentivo c'è delle persone, dopo ho visto una bara bianca, ci sono rimasta così. Ecco, il bilancio definitivo sarà tragico, si conteranno 14 morti. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw. Because you love me, questa è Celine Dion. Senti Frankie, oggi sei un po' romantico, molto melodico, anche un po' melenso, te lo posso dire. Ma insomma tu... Melenso, dai. Ti piace melenso? Melenso, mi trovate cosa vuol dire melenso? No, Franco, guarda, come sei tu dai, oggi? Rachele Caraccio, per favore, senti, fai subito una cosa, melenso. 1996, tu vivevi a New York da quasi 20 anni, ma ascoltavi solo Celine Dion? Fammi capire. Beh, ascoltavo le radio, però ti devo dire una cosa. Allora, dimmi tutto. C'è un brano del 1993. Sì. Frankie, io apprezzo, diciamolo, ho sbagliato il pezzo di Madonna. Lei è lei, però appunto... Beh, dalla colonna sonora del film... Evita, oppure evita, ecco, nel senso evita, proprio, proprio evita, evitarlo, evita. Madonna, infatti, sì, ogni volta che lei, cioè lei era la regina indiscussa delle hit parade, però ogni tanto gli veniva in mente di fare qualche film, e lei non è che si poteva dire di si no si travestiva facilmente. Anche lei da Celine Dion, e ogni volta che lei diceva mai mi metto fuori, io voglio fare l'attrice, non era come per esempio Beyoncé o Jennifer Lopez o Mark Wahlberg o Ice-T, che comunque sono passati dalla musica a fare gli attori, ma sono bravissimi. E ogni volta che lei dice questa vuole fare un film, oh Madonna, Frankie, a proposito di Hollywood film, nel 96 esce uno dei film più premiati della storia. Perché mi odiavi? Che cosa? Non lo sai che hai fatto impazzire tutti? Non parlare. Tu parli tante di quelle lingue, eppure non vuoi mai parlare. Porti ancora il mio ditale? Naturalmente, brutto idiota. Lo porto sempre, l'ho sempre portato. E ti ho sempre amato. Brutto idiota, brutto idiota. No, Franco, Franco, oggi va così. No, perché c'è Chiappini, no, già no, lo vedo dall'altra parte, hai i polsi scoperti. Non so, allora, Franky, naturalmente era il paziente inglese, sì. la scena finale, perché oggi siamo appunto sul romantico spinto. Comunque il film di Anthony Minghella, con protagonista Ralph Fiennes, che si aggiudica 2 Golden Globe, ben 9 Oscar, tra cui quello all'attrice Juliette Binoche, che vince anche l'Orso d'Argento a Berlino. Pensa, il film è stato girato in gran parte in Italia, Trieste, Forte dei Marmi, Venezia, oltre che negli studi di Cinecittà. E c'è quella famosissima scena in cui la Binoche volteggia estasiata tra gli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco ad Arezzo. Comunque sappi che il film, il Melenso, quello che vuoi, ha incassato oltre 230 milioni di dollari. Ma forse che con i sentimenti si va bene? Sarebbe una grande scoperta. Comunque questo film invece non vince gli Oscar, non è romantico, finalmente. Ma diventa comunque un caso, anzi è un film indimenticabile. È un cult. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Ecco, Franco, Trainspotting, cattivo, duro, in attesa del giorno in cui morirai, terribile, presentato al 49esimo Festival di Cannes, tratto dal romanzo di Irving Welsh e diretto dal grandissimo Danny Boyle. Lo sai che la caracciolo non l'aveva visto? Io non l'aveva visto. L'ha visto, dice che l'ha visto. Ma nicchiava. Comunque, quanto si sono divertiti a fare questa colonna sonora del film. Beh, perché tra le canzoni più belle di la colonna sonora c'è, si è ripreso Alessandro, visto già. Sì, adesso perché si è tirato su, ce la può fare. Iggy Pop, Last for Life, che viene nominato numerose volte durante il film. Ma lo sai che in Gran Bretagna è appena uscito il sequel di Trainspotting? Stesso regista, Danny Boyle, stessi attori, con Ewan McGregor protagonista, però certo, sono passati 20 anni. George Michael, recentemente scomparso con nostro grandissimo dolore. Drammissimo. Perché era veramente uno fantastico. È stato un anno molto difficile. Sì, molto difficile. Molto complicato. Prince. Molto complicato. Questo è stato l'ultimo non regalo che ci ha fatto l'anno passato. Questo era Fast Love. Siamo in Inghilterra, però non possiamo stare in Inghilterra e non parlare delle ragazze. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want. E queste sono le Spice Girls con Wannabe. Se vuoi il mio futuro, dimentica il mio passato. Non è male. Ma è una cosa canto, cioè è filosofica, è di una profondità. Sono state sottovalutate. Assoluta. Comunque, il 19 dicembre del 96 a Parigi muore lui. Marcello, come here. Hurry up. Vengo anch'io. È Marcello Mastroianni, naturalmente. Questa era la famosissima scena della Dolce Vita. Marcello, come here, quando Anita Edberg, in una delle scene più famose del cinema mondiale, nella Fontana di Trevi, dice: Marcello, come here. Tu saresti andato, Franco? Per me la scena più famosa della Fontana di Trevi rimane quella di Totò che la vende. Hai ragione, scusa, hai ragione, Franco. No, senza togliere niente a Marcello, Anita Edberg, quella di Totò. Totò rimane leggendaria, vince su tutte. Virtual Insanity, Jamiroquai. Bella, bella, bella. Senti, Franchi, ci sono due notizie televisive che non possono andare, perché quest'anno nascono due programmi. La prima sigla che ti faccio ascoltare è questa. Il salotto televisivo Porta a Porta di Bruno Vespa. Era il 22 gennaio e il primo ospite era Romano Prodi, candidato alle elezioni politiche che abbiamo commentato già prima, e la sigla del programma è la colonna sonora di Via col Vento. E poi è così poco il tempo per amare. Nasce su Rai 3 Un posto al sole, ambientata a Napoli, è la soap italiana di maggiore successo mai realizzata nel nostro paese. Pensa che ancora oggi è in onda e ha festeggiato i 20 anni di puntate. Franco, e tu lo sai chi ha realizzato questo progettino? Giovanni Minoli. E tu lo sai chi è che ha recitato in Un posto al sole a New York? No. Io, Franchi, facevo il giornalista. No, guarda, credo che andrò a cercare la puntata. Senti, Franchi, siamo in chiusura, in chiusurissima, e anche questo 1996 lo chiudiamo al nostro solito modo, ovvero con una canzone scelta da Antonella Migliaccio, che ha pescato anche che ha pescato, oggi. Ha pescato da Sanremo, pensa, per farti contento forse, perché al festival arriva tra le nuove proposte una giovanissima cantautrice catanese, 22 anni, si chiama Carmen Consoli. E per gli anni 90, per le ragazze degli anni 90, quando uno non si ricordava il giorno del nostro compleanno, partiva questo, partiva Un amore di plastica. A venerdì prossimo, Franchi, con il 1997. Ciao a tutti, ciao da Franco Schipani, ci vediamo fra una settimana. Ciao, e intanto ciao. Carmen Consoli, Amore di plastica. Offrivi un amore di plastica.